in primo piano. Buongiorno a tutti da Giulia Crivelli, buon martedì. Eccoci con la rassegna stampa dei giornali di oggi. Il titolo è per quasi tutti i quotidiani legato a quello che sta succedendo in Siria e in particolare alle reazioni che avete sentito anche nel GR di Washington. Il Corriere della Sera usa un virgolettato appunto che arriva direttamente dal segretario di Stato, cioè il ministro degli esteri americano John Kerry, che ieri ha detto: in Siria sono stati usati gas, risponderemo. E poi nel sommario Washington, il Corriere ricorda anche quella citazione che ha fatto molta impressione, molto dura: Washington ha parlato di oscenità morale, Obama decide quale sarà l'azione. Su questo tema vi segnalo l'editoriale di Guido Olimpio dalla prima pagina del Corriere della Sera, la sottile linea dell'intervento, e vi leggo le prime e le ultime righe. Il segretario di Stato John Kerry ha definito la cornice morale per un possibile intervento militare statunitense in Medio Oriente, un'azione contro la Siria. Siamo lontani dalla provetta esibita da Colin Powell al Palazzo di Vetro per denunciare le armi di distruzione di massa inesistenti di Saddam. Ricorderete, Colin Powell era segretario di Stato ai tempi della prima amministrazione Bush. Qui non ci sono ampolle e non c'è neppure l'ONU. Obama ne deve fare a meno, però è costretto ad agire camminando su una strada piuttosto stretta e senza troppo entusiasmo. Tant'è vero che il portavoce della Casa Bianca sottolinea che il presidente non ha ancora deciso come rispondere. E vi leggo l'ultima parte. Ci si preoccupa per i rischi dell'operazione, ma anche del dopo. Se la Casa Bianca ha tardato così tanto a reagire alla repressione feroce in Siria, è a causa dell'incertezza sul futuro. Mancano gli interlocutori sicuri, c'è il rischio di un paese diviso in cantoni, quelli che sono gli alleati di oggi, i ribelli, possono diventare i nemici di domani. Specie quelli che innalzano le bandiere nere chediste, estremisti con agende e obiettivi ben lontani da quelli occidentali. A Washington ancora brucia la ferita di Bengasi, il sacrificio dell'ambasciatore Chris Stevens e dei suoi collaboratori resta un monito doloroso a non fidarsi. Poi naturalmente c'è la politica, l'altro titolo del Corriere della Sera è sia il decreto precari, corsa sull'IMU, e poi nel sommario Letta, soluzione strutturale, Berlusconi frena i falchi. E su questo, sui retroscena appunto a quello che sta succedendo nel PDL, ci sono due articoli: il Cavaliere, basta in questo modo ci facciamo del male, di Tommaso Labate, che continua a pagina 6, e poi di Virginia Piccolillo, il caso decadenza, ora si tratta sul cosiddetto lodo violante. Ma vi segnalo l'editoriale di Dario Di Vico, l'analisi di Dario Di Vico, che si intitola Chi paga il conto dell'instabilità. Vi leggo anche qui la prima parte, continua poi a pagina 37. C'è chi dice che la grande crisi può essere sintetizzata in una sola immagine: il divorzio tra finanza ed economia reale. Ebbene, Silvio Berlusconi è riuscito nel miracolo, almeno per uno scorcio di tempo le ha rimesse insieme. E come dicevo appunto a pagina 37, continua Dario Di Vico, i mercati finanziari la pensano come leader dei commercianti, gli analisti delle sale operative hanno la stessa percezione degli artigiani che stanno aspettando il rimborso dei pagamenti dalla pubblica amministrazione. Tutti sostengono che a questo punto una crisi di governo equivarrebbe a una gelata sull'economia e a un drastico peggioramento delle chance del risanamento italiano. Il Cavaliere, dando spazio ai falchi del PDL, non solo ha messo d'accordo Nouriel Roubini, l'economista appunto, è Carlo Sangalli, appunto il presidente di Confcommercio, ma persino dentro il suo gruppo c'è chi sostiene apertamente che Mediaset è naturalmente governativa. Insomma, se il Biscione potesse scegliere, voterebbe per far rimanere Enrico Letta a Palazzo Chigi, e del resto fedele Confalonieri è stato sempre gradito ospite delle convention trentine di Vedrò. Vi leggo l'ultima parte. Il lunedì del rientro e la successiva caduta della borsa hanno anche mostrato l'esistenza di una questione Mediaset. La società milanese è troppo dipendente dal mercato italiano e degli andamenti pubblicitari domestici. Non è riuscita nel tempo ad affrancarsene, non si è internazionalizzata e non si è diversificata diventando una major. Ha finito per restare un broadcaster eccessivamente legato agli umori della politica, la controfigura dell'Italia, come la definiscono gli analisti finanziari. Solo così si spiega il paradosso che ha visto nel 2013 il titolo Mediaset apprezzarsi del 100% in virtù della resurrezione politica del Cavaliere e dei governi bipartisan, non certo per la ripartenza degli investimenti pubblicitari, che anzi hanno continuato a calare a doppia cifra. E visto che parliamo di economia, vi segnalo subito la prima pagina del Corriere della Sera, che titola sulla borsa il peso della crisi. Ieri infatti la borsa italiana ha perso il 2,10% ed è stata l'unica in Europa, perché invece tutte le altre borse europee e anche Wall Street hanno tenuto. Lo spread, inoltre, lo avete sentito nel GR, è risalito a 250 e ha affondato i titoli bancari, come sempre i più sensibili appunto all'andamento dello spread. In prima pagina l'editoriale di Guido Gentili, che avete sentito del resto anche nel nostro GR, e poi un'analisi di Isabella Bufacchi: l'oscurità politica batte ogni trader. Vi leggo le prime righe, poi continua a pagina 2. La politica mette a disagio i mercati finanziari, sempre e comunque. È una variabile fondamentale ma incompresa. E la politica italiana, che influisce su 1.727 miliardi di titoli di Stato in circolazione, è capace di mandare in tilt i trader non solo oltre Alpe su scala internazionale, ma anche in casa. E poi, come sempre, sul Sole 24 Ore ci sono le due serie di approfondimenti, una dedicata alla casa e una dedicata al portafoglio. Oggi quella sulla casa è ancora una volta dedicata ai lavori, a tutte quelle facilitazioni, agevolazioni fiscali sulle ristrutturazioni, e poi invece quella sul portafoglio è dedicata agli ETF. Dalla pagina 7 del Sole 24 Ore vi segnalo inoltre tutte le novità su tutte queste misure per il pubblico impiego che sono state richiamate in prima pagina, lo vedremo anche su altri quotidiani. Quindi una pagina intera a cura di Claudio Tucci: statali, autoblu, fondi UE, al via il pacchetto pubblica amministrazione. Vi dicevo i due approfondimenti, quello sugli ETF, cioè i fondi quotati, economici e accessibili anche con cifre modeste, c'è la solita pagina con tutti i consigli operativi, i profili di investimento e le regole, quindi lo scenario, e dicevamo invece l'approfondimento sulla casa, ancora una volta dedicato ai lavori di ristrutturazione, con Alessandro Arona e Francesco Basile che ci spiegano appunto più semplice ricostruire senza rispettare la sagoma. La sagoma, questa parola chiave che indica l'edificio e il preciso spazio che occupa, da cui poi dipendono appunto tutta una serie di agevolazioni. Ancora un approfondimento sul Sole 24 Ore di oggi, è una guida, una delle guide a cura della redazione di Norme e Tributi, oggi riguarda il famoso decreto lavoro che interessa così tante persone e così tante aziende. Quindi gli incentivi per assumere gli under 30, le nuove regole e le sanzioni per la sicurezza e come cambiano le regole per le start-up e le SRL. A proposito di lavoro, da pagina 37 del Sole 24 Ore vi segnalo una notizia positiva, ce la racconta Emanuele Scarci: Esselunga sfida la crisi, assunti 536 lavoratori. È stato tra l'altro approvato il bilancio del 2012 che ha chiuso, il bilancio di Esselunga, che è l'unica vera ormai catena di grande distribuzione italiana in grado di contrastare quelle straniere. L'esercizio 2012 quindi ha chiuso con ricavi e utili in aumento. Ma veniamo alla prima pagina della Repubblica, anche qui il titolo è sulla questione siriana, gli USA due punti, Assad pagherà. Qui ci sono due approfondimenti, uno è di Federico Rampini, corrispondente da New York, il dubbio di Barak, che appunto ci racconta i dilemmi, e del resto abbiamo capito che Barak era incerto, ci ha messo molte settimane a prendere una posizione che poi ieri è arrivata anche tramite le parole del suo segretario di Stato John Kerry, e poi c'è invece l'analisi di Lucio Caracciolo, che è il direttore di Limes, questa rivista di geopolitica, l'unica che esiste in Italia e anche abbastanza unica in Europa, che si intitola questa analisi L'America è indispensabile. Vi leggo le prime righe, poi l'analisi continua a pagina 28. Riprendere la misura di se stessi non è facile, specie dopo aver tanto creduto, con ottime ragioni, nella propria superiore potenza. Eppure è questo il filo rosso con cui Barack Obama ha finora tessuto la sua politica estera, nella consapevolezza che l'età aurea del presunto mondo unipolare è trascorsa. Obiettivo: districare gli Stati Uniti dalle disastrose guerre di Bush figlio, perché è un po' tutto sommato la paura che percepiamo noi, a torto o a ragione, dell'amministrazione Obama è appunto quella di distinguersi dagli errori di Bush, come del resto ricordava anche Guido Olimpio sul Corriere della Sera, facendo il paragone con quella pistola fumante poi risultata finta delle armi chimiche attribuite a Saddam, che in realtà non c'erano. Dalla Repubblica naturalmente anche ampio spazio alla politica. Il titolo è: Berlusconi frena i falchi, intesa lontana sull'IMU, borsa giù, crolla Mediaset. Quindi gli elementi sono un po' gli stessi, anche se naturalmente vengono dati con enfasi diverse a seconda del giornale. Cioè la novità che è venuta ieri appunto con Berlusconi, che pare abbia detto a tutti quelli considerati falchi, Santanché in testa, state calmi, non date più interviste, manteniamo tutti un profilo un pochino più basso, la questione questione dell'IMU, che tra l'altro sarà uno dei temi nel Consiglio dei Ministri in programma per domani, e poi l'andamento delle borse, l'abbiamo visto. Quindi due i retroscena richiamati in prima pagina, uno di Francesco Bei, Letta e Alfano, l'ultimo patto, quindi Premier e Vice Premier che cercano appunto di trovare una mediazione. Poi ancora la questione del debito con quella che Federico Fubini chiama la sindrome di Atene, perché con tutto appunto quello che sta succedendo a livello politico locale può influenzare la percezione che i mercati hanno dell'Italia e naturalmente del suo debito pubblico. E poi infine vi segnalo un'intervista di Liliana Milella a Gustavo Zagrebelsky, costituzionalista, che dice: nessun compromesso sul Cavaliere, la legge è uguale per tutti, la decadenza una presa d'atto. Dalle pagine interne della Repubblica vi segnalo però un articolo, una corrispondenza di Andrea Tarquini da Berlino, sulla, sappiamo, ne abbiamo parlato anche ieri, il 22 settembre in Germania si voterà, una data importante per tutti, non solo per la Germania, perché Angela Merkel è probabilmente avviata verso una conferma, e sappiamo che le posizioni di Angela Merkel sulle questioni europee, sul rigore che i paesi come l'Italia devono continuare ad avere, sono molto criticate. E quindi Andrea Tarquini ci racconta, ha intervistato lo sfidante, uno degli sfidanti di Angela Merkel, e che è Bernd Lucke, leader carismatico di Alternative für Deutschland, un nuovo partito euroscettico che potrà prendere molti voti alle elezioni del 22 settembre. Il titolo: Berlino, la sfida dell'anti-Merkel, entriamo nel Bundestag e poi cacciamo il Sud dall'euro. Dalla prima pagina della Stampa, invece, la Stampa fa una scelta un po' diversa, cioè il titolo principale è Nuove tasse per togliere l'IMU, via libera alle norme sui precari della PA, questo l'abbiamo visto, appunto, tutte le novità per gli statali, e poi da Berlusconi stop ai falchi. Quindi, appunto, come vi dicevo, gli elementi sono questi, poi a seconda del titolo viene data un peso un po' diverso. Naturalmente anche la questione Siria, quindi il titolo: gli USA, Damasco, ha usato i gas pronti all'attacco. E vi segnalo però un approfondimento un po' diverso sulla Stampa, e che Claudio Gallo ci racconta, pagina 10 e 11 della Stampa, il principe saudita che viene definito l'anti-Assad, Bandar bin Sultan, che ci spiega appunto, questo giornalista della Stampa, potrebbe avere una soluzione alternativa. L'ultima mossa, 15 miliardi per convincere Putin. Questo è un po' il ruolo che Bandar bin Sultan vorrebbe avere. Ha 64 anni, è il capo dei servizi segreti sauditi e sta cercando di tessere un'alleanza, appunto, di rafforzare l'alleanza con Vladimir Putin, per cercare di evitare comunque l'intervento armato. Ci ricorda Claudio Gallo che le mosse della Siria sullo scacchiere medio orientale, in Afghanistan, per quanto riguarda l'Afghanistan, Bandar, appunto capo dei servizi segreti siriani, ha finanziato i talebani e Bin Laden. In Iraq è stato uno degli uomini chiave nel convincere gli americani ad attaccare Saddam, e per quanto riguarda il Qatar, ha appoggiato il golpe al Cairo e ha ridimensionato le ambizioni dell'emiro. In primo piano. Ancora buongiorno da Giulia Crivelli, eravamo sulla prima pagina della Stampa, che è l'unico grande giornale a dare molto spazio alla separazione annunciata dopo 14 anni di matrimonio tra Monica Bellucci e Vincent Cassel. Amore finito, la cronaca è di Michela Tamburrino, ma vi regalo, vi leggo il buongiorno di Massimo Gramellini, che è tornato oggi. Sono contenta, così riesco a, io amo molto Gramellini, così riesco in questi ultimi giorni di rassegna a citarlo, e il suo buongiorno di oggi è proprio dedicato a Monica Bellucci e anche a Domenico Scilipoti. Si intitola Nei secoli infedele. Basta parlare di Berlusconi. Parliamo di due icone dell'Italia nel mondo, Monica Bellucci e Scilipoti. Bellucci si è separata da Vincent Cassel dopo 14 anni di coppia aperta e invidiata. Scilipoti, molto più inquieto, forse solo più corteggiato, in caso di caduta del governo, delle poche pretese, già minaccia di porre fine al matrimonio lampo con il munifico Silvio per accomodarsi responsabilmente all'ombra di Enrico. Nicoletta. Sono tempi convulsi in cui la tenuta della passione è sottoposta a pressioni feroci. Era facile giurare fedeltà eterna al re o al coniuge quando tra guerre e pestilenze la vita media sfiorava i 30 anni. Oggi, grazie ai progressi della medicina e agli eccessi della Santanchè, un monogamo in buona fede corre il rischio di dover sopportare lo stesso partner o lo stesso leader fino alla 100ª edizione di Porta a Porta. Così l'amore si adegua, la fedeltà si trasforma. Bellucci ha fatto sapere che nonostante la separazione dal marito rimarrà legata alla famiglia, Scilipoti alla poltrona. E a proposito di questa separazione vi segnalo anche il bel corsivo di Maria Luisa Agnese, richiamato in prima pagina sul Corriere della Sera e poi lo trovate a pagina 25. Vi leggo le prime righe, si intitola Elogio dei resistenti della coppia solida. Che delusione, Vincent Cassel e Monica Bellucci sembravano la coppia perfetta, modernamente non simbiotica, niente gruppi lacoontici come i Brangelina, sempre appesi l'una all'altra con contorno di pargoli. No, loro erano fieramente autonomi, indipendenti, riuscivano a condurre vite separate da un set all'altro, ma sempre uniti da solidi legami sotterranei che parevano inossidabili. Come sappiamo, come abbiamo capito, non erano così inossidabili. E quindi, conclude Maria Luisa Agnese, facciamo il tifo per gli ultimi resistenti, quelli che hanno capito che non vale la pena di accumulare nozze e divorzi come trofei, tanto si sa che il prossimo non sarà necessariamente migliore. Anzi, forza Hilary e Francesco Totti, dunque, e Valeria e Riccardo Scamarcio, Melanie Antonio Banderas, Luciana e Matt Damon, Livia e Colin Firth. Resistete. E da invece passiamo, torniamo insomma agli argomenti della politica, più seri o meno seri non so, e la prima pagina del giornale molto, non so, oserei dire violento, il titolo del giornale che è Operazione Terrorismo. Si muove la finanza occulta, come ai tempi di Monti, una manina muove spread in su e borsa in giù per isolare Berlusconi e sostenere il governo Letta. Sull'IMU ore decisive. Epifani a caccia di senatori, il Cavaliere ordina il silenzio ai suoi. Sulla Siria vi segnalo l'intervento di Vittorio Feltri, non spingete l'Italia in un'altra guerra inutile, perché probabilmente insomma, si può tranquillamente ipotizzare che se l'intervento dopo l'intervento americano verrà poi coordinato dall'ONU o dalla NATO si chiederà anche un contributo all'Italia. E appunto Vittorio Feltri dice che non sarebbe il caso. Vi segnalo la prima pagina del Manifesto per così spostarci da, politicamente da un giornale dichiaratamente di centrodestra, uno dichiaratamente non di centrosinistra ma di sinistra. Il titolo è Sulla via di Damasco. C'è una foto di John Kerry che è proprio in movimento, che così come sempre le foto del Manifesto sono molto significative, e l'analisi è tutta dedicata appunto alla posizione espressa finalmente da Washington sulla questione siriana. Ma vi segnalo soprattutto dalla prima pagina del Manifesto un intervento secondo me molto interessante per capire un po' dove sta andando il PD, perché forse anche lì c'è molta, anzi senza forse, c'è molta incertezza. È un intervento di Giuseppe Civati che si intitola La solitudine di Galli della Loggia. Lo cito anche perché ieri abbiamo letto proprio un pezzo di questo editoriale che era sulla prima pagina del Corriere della Sera, e Civati, che si è sentito tirato in causa da Galli della Loggia che l'aveva proprio nominato, dice Galli della Loggia sul Corriere di ieri propone l'ennesima caricatura della sinistra che non capirebbe i moderati, dopo il voto di febbraio, vere e proprie figure mitologiche. Mi cita in chiusura di un pezzo per canzonarmi, perché non sono abbastanza di destra, probabilmente. La mia sinistra, che ora non c'è, perché lo spazio è occupato da chi fa cose diverse da quello che dovrebbe, si rivolge ai moderati e a quelli che non lo sono o che non si manifestano come tali, con poche e comprensibili proposte. E questo intervento di Giuseppe Civati continua poi a pagina 15 del Manifesto. Vi leggo le ultime righe. Io penso che ci debbano essere due alternative in campo, la Berlusconi e figli da una parte e quelli che hanno un'idea diversa dalla destra, e se posso anche diversa dalla sinistra che oggi conosciamo, perché mi chiedo che cosa sia tutta questa corsa al centro, anzi proprio verso destra, che sembra contagiare tutti quanti. Dopo aver inseguito Casini e Monti, che ora giacciono sfiniti, vittime certamente delle nostre persecuzioni, persecuzioni, ora ci toccherà inseguire qualcun altro che prenda i voti al centro, per poi magari scoprire che si chiama Casaleggio. Rivendico il diritto di dire le cose in cui crediamo. È l'unica cosa che funziona sempre e che ci rende credibili perché ci crediamo. Siamo stanchi di dover negare noi stessi. Lo abbiamo fatto per tanti anni e possiamo dirlo con moderazione. Non funziona. Chi non è d'accordo bisogna cercare di convincerlo, certo. A volte però bisogna anche cercare di sconfiggerlo moderatamente alle elezioni. Basta una matita. Passiamo al titolo dell'Unità, anche qui non è sulla questione strettamente politica di quello che succederà al governo, ma sul decreto che è stato varato ieri sulla pubblica amministrazione. Il virgolettato, mai più precari nello Stato, lo ha detto il Premier Letta e l'Unità lo ricorda. Poi c'è una fotonotizia di Obama che scende dall'Air Force One, anzi che scende da un elicottero militare. Siria, Obama minaccia, offeso il mondo, con tutti gli approfondimenti appunto su quali potrebbero essere le conseguenze di un intervento diretto di Washington in Siria. Poi c'è comunque naturalmente una cronaca politica, quindi da una parte quello che è successo ieri in borsa, Mediaset crolla, il Cavaliere frena sulla crisi e poi polemiche sul ricorso al voto in giunta, quello che succederà il 9 settembre, avete sentito la controcopertina di Alessandra Schepisi nel GR, il PD però ribadisce nessun cedimento sulla posizione che è quella appunto che sappiamo di espressa più volte dal segretario Epifani di votare per la decadenza di Berlusconi da senatore. A questo proposito vi segnalo la prima pagina del Messaggero, anche in questo caso il titolo è sul decreto pubblica amministrazione, statali, misure salva precari, ma c'è poi un articolo di Maria Latella, che sapete è la biografa ufficiale di Veronica Berlusconi, che ci racconta come la telefonata di Ferragosto di Veronica per dire al Cavaliere ti sono vicina, e questa cronaca sicuramente attendibile, visto che appunto Maria Latella è da sempre molto vicina a Veronica Berlusconi. Credo siano anche andati in vacanza insieme quest'estate, è a pagina 9 del Messaggero. Dalla prima pagina di Libero invece anche qui un titolo molto un po' meno violento di quello del Giornale, però comunque molto chiaro a tutta pagina: o la borsa o la vita. Titoli Mediaset sotto attacco a Piazza Affari, in poche ore bruciati 250 milioni. Un chiaro segnale dopo le tensioni sul governo. Silvio zittisce falchi e colombe, basta, così danneggiate il partito. C'è un editoriale di Maurizio Belpietro, direttore di Libero: gufi sui moderati, ma a sinistra stanno peggio, ed è un po', insomma, si lega anche, se volete, all'intervento di Civati, cioè chi sono appunto i moderati, come sta il PDL, che, dove c'è questo apparente conflitto tra i falchi e le colombe, ma anche come sta il PD, dove sicuramente c'è un conflitto soprattutto tra chi viene definito troppo centrista e chi vorrebbe essere meno centrista, come spiega Giuseppe Civati. Dalla prima pagina invece della Padania il ricatto, le due persone in copertina sono da una parte Enrico Letta e dall'altra Angela Merkel, perché sapete che una delle tesi è che dietro un po' questo andamento dello spread, che è il differenziale tra i titoli di Stato italiani e i Bund tedeschi, ci siano anche, un po' come ipotizzava anche il Giornale, ci sia appunto una manina della finanza. Salvini, che è il numero due della Lega in questo momento, ha detto ieri: gli sciacalli di Roma e Bruxelles ci riprovano con lo spread. Se il governo salta, le borse crollano, dicono, ma se l'esecutivo non salta, a crollare sarà l'Italia. Basta con i ricatti della finanza, riprendiamoci in mano la nostra sovranità, la nostra autonomia, il nostro lavoro. La prima pagina del Fatto Quotidiano è ovviamente qui molto molto politica: scudi umani salva Caimano, ecco il pateracchio del Colle. Si cerca, il Corriere della Sera aveva il retroscena sul cosiddetto lodo violante, che infatti è anche ritratto in una vignetta di Mannelli sul Foglio, e il Fatto torna appunto su questa questione, che non è da poco, è molto intricata, è molto giuridica, però appunto si sta lavorando a una soluzione il più costituzionale possibile per salvare quella che viene definita l'agibilità politica di Berlusconi. Ecco, allora scrive il Fatto: squilla la tromba del solito violante, Berlusconi ha diritto alla difesa, giusto appellarsi alla Corte Costituzionale, da Capotosti a Onida, da Vietti a Galli si leva il coro di saggi e giuristi di corte, l'obiettivo rinviare la decadenza di Berlusconi. Vi segnalo, prima della pausa per gli aggiornamenti sul traffico, anche la prima pagina dell'Avvenire, anche in questo caso come il Messaggero, come l'Unità e anche altri giornali. Il titolo è sul decreto della pubblica amministrazione. Basta precari di Stato, è una svolta sicuramente importante che, come avete visto anche sul Corriere sull'approfondimento del Sole 24 Ore, in realtà non riguarda soltanto i precari, ma prevede molte nuove novità, tra cui anche il taglio famoso delle auto blu e di tutte le consulenze, e anche l'istituzione ci ricorda l'Avvenire di un'agenzia con 120 esperti che finalmente riesca a utilizzare meglio quei fondi europei che tante volte abbiamo letto vengono stanziati, vengono destinati all'Italia e poi non vengono usati per lentezze burocratiche. Vi segnalo però dalla pagina dell'Avvenire due approfondimenti che non ho trovato altrove e trovo molto interessanti. Uno è un reportage da Fukushima, dove c'era stato l'esplosione del reattore della centrale nucleare, che poi aveva aveva creato tantissimi problemi anche di inquinamento. Ecco, Pier Giorgio Pescali ci racconta come a Fukushima ci sia un deserto nucleare, ma si continui a seminare. E poi un interessantissimo editoriale sull'acqua, che è sicuramente l'oro blu, di Leonardo Becchetti, che stimola tutti a riflettere di più sull'uso più consapevole di questa risorsa così preziosa. Vi segnalo dalla Repubblica un articolo richiamato in prima pagina di Ettore Livini: Controordine care ragazze, meglio i figli della carriera. In Gran Bretagna e negli Stati Uniti, continua poi a pagina 31, 32 e 33 con articoli anche di altri giornalisti, questo approfondimento che riguarda appunto i dati che arrivano soprattutto dal mondo anglosassone. In Gran Bretagna e negli Stati Uniti è in corso una rivoluzione, le ventenni, contrariamente alle madri, preferiscono matrimoni e figli alla carriera, e in Italia l'onda rosa non esiste, le donne giovani continuano a non avere scelta. Dalla prima pagina del Foglio invece vi segnalo un altro ritorno dopo le vacanze, che è quello di Annalena Benini, che è una, secondo me, bravissima giornalista che appunto scrive per il Foglio, anche rubriche credo su un paio di altri settimanali, e anche in questo caso il tema sono le ragazze. Con te non ci sto più, una scrittrice inglese dice addio al femminismo perché il grande amore è diventato troppo stronzo, scusatemi la parola, ma così c'è scritto sulla prima pagina del Foglio, e puritano. Ripeto, molto divertente, abbiamo bisogno di un po' di leggerezza ogni tanto, e vi leggo le prime righe. Ci si innamora di qualcuno o di qualcosa anche per come soffia fuori il fumo della sigaretta, per le cose che pensa, per come le dice, per la magnifica possibilità che vediamo balenare dentro un libro, un sorriso, che con quella persona, con quella idea, la nostra vita sarà più bella e noi stessi diventeremo migliori. L'adesione totale all'inizio è perfetta, condividiamo ogni parola, ci piace tutto, ci sentiamo salvi e compresi, e a volte è davvero così. E poi, insomma, continua l'articolo di Annalena Benini, che si lega un po' anche alla fine dell'amore tra, o fine del matrimonio, se non dell'amore, tra Vincent Cassel e Monica Bellucci, e poi anche in generale, insomma, a queste grandi questioni irrisolte dell'inizio e della fine di un amore. Ma dalla prima pagina del Foglio vi segnalo anche l'editoriale di Giuliano Ferrara, che è legato a questo tema dei moderati, all'editoriale di Iri Galli della Loggia, alla risposta di oggi di Civati, che abbiamo visto con un intervento sul Manifesto. Vi leggo anche qui le prime righe di questo pezzo, che si intitola Moderato fa rima con frustrato. Il moderato italiano è un frustrato naturale, come dimostrava ieri l'editoriale del Corriere. Al moderato non piace Berlusconi, detesta i suoi modi, la sua lingua, il suo abbigliamento, la sua stessa anomalia costituzionale, il privato in politica. Non gli sta bene la sinistra nelle sue diverse incarnazioni, con i riti ideologici, il politicismo professionale d'apparato, i programmi verbosi e inconcludenti, il retaggio storico. Al moderato non far sapere quanto è ributtante il centro con le pere. Mario Monti è senza idee, senza voti, Casini un parassita, le uniche due esperienze di partito centrista con l'esito elettorale sono mostri. L'uomo qualunque, Forza Italia. Ecco, questo insomma tutto sommato si lega anche con quello che dice Maurizio Belpietro su Libero, una grande confusione, il centrodestra non sta bene, ma non sta tanto bene neanche il centrosinistra. Torniamo al Corriere della Sera. Qui vi segnalo un approfondimento sul 5 Stelle, perché insomma sono un po' così spariti dalle cronache, il movimento di Beppe Grillo, anche se Beppe Grillo in questi giorni ha addirittura detto no, torniamo a votare, è importante tornare a votare, va bene anche il Porcellum. Ecco, il caso è che ci racconta Emanuela Buzzi sul Corriere della Sera è quello del blogger che ha uno pseudonimo che è BioBlu, è un videoblog in realtà il suo. A marzo venne scelto da Grillo e Casaleggio, si chiama Messora questo signore, è il capo della comunicazione, e venne scelto da Casaleggio come responsabile appunto della comunicazione. E ora, secondo quello che ci racconta Emanuele Buzzi, ci sarebbe questo scontro tra ortodossi contro aperturisti. Sapete che ieri addirittura c'è stato un leghista a Milano che ha detto a questo punto meglio con i 5 Stelle che con tutti gli altri, cosa che, di cui tra l'altro sulla Padania non c'è traccia, ma insomma lancia un altro possibile sasso nel mare agitato della politica italiana. E passiamo invece a un altro approfondimento che ho trovato molto interessante, perché da una parte il Corriere della Sera ci fa un po' di cronaca, la trovate anche su altri giornali, anche sul Sole 24 Ore con la nostra corrispondente Rita Fatiguso, ed è quella della vicenda di Boxy Lai, sapete il marito di l'ex stella nascente della politica cinese, marito di una donna, Gu Kalai, che in questo momento è in carcere per omicidio, avrebbe ucciso un poliziotto che era il braccio destro di Boxy Lai. Insomma, il titolo dell'articolo è Sesso, bugie e schiaffi, finale a luci rosse nel processo del secolo. Ma a parte questo, il Corriere della Sera lega un po' questa vicenda a quella, scusatemi, non il Corriere della Sera, ma sulla Stampa invece troviamo una vicenda nell'altro grande gigante protagonista dell'economia e della politica internazionale, che è la Russia. Ecco perché se Boxy Lai è il protagonista in negativo, diciamo, di un certo modo, era appunto l'ex numero due del Partito Comunista Cinese, di tutti gli intrecci tra privato e pubblico nella politica della Cina, in Russia c'è un'elezione importante tra 2 settimane, quella del nuovo sindaco della capitale, che è sostenuto dal presidente Putin. E ora Anna Zafesova da Mosca ci racconta tutti contro Navalny, la sporca campagna per la presa di Mosca. Alexei Navalny ha 37 anni, è l'antagonista un po' del candidato di Putin, e questo ci dà un po' anche lo specchio di quello che sta succedendo in Russia, dove sicuramente ci sono molte lotte di potere con un uomo forte che è Putin, e poi tentativi di portare avanti delle alternative più o meno democratiche, non sappiamo, ma sicuramente appunto un po' lontane dal pensiero unico. A proposito di denunce e di pensiero unico, dalle pagine del Messaggero, dalla pagina 24, vi segnalo un'intervista a Francesco Rosi, che torna alla Mostra del Cinema di Venezia, che si apre domani in Laguna, a 50 anni dalle proiezioni a Venezia delle Mani sulla città, e dice Francesco Rosi: oggi verrebbe applaudito, all'epoca non l'era stato, la gente ha capito quando siano necessari i film che indagano la realtà. E forse, chissà, presto avremo anche appunto un film che ci racconta un po' meglio, perché i film a volte possono fare meglio di articoli giornalistici, meglio di cronache, che non si capisce bene quanto possano essere fedeli, perché è molto difficile far filtrare informazioni. I film appunto possono raccontarci meglio di tanti altri mezzi quello che succede in mondi molto lontani, come appunto penso alla Russia e alla Cina. Ma mondi lontani un po' ma sportivi sono quelli della Coppa America, che in questo momento si è chiusa la Louis Vuitton Cup con la vittoria di Emirates Team New Zealand, che adesso è pronta a sfidare i detentori della Coppa. Le regate inizieranno il 7 settembre e Luna Rossa appunto è stata sconfitta, ma Patrizio Bertelli, amministratore delegato e presidente del gruppo Prada, è in realtà più combattivo che mai ed è pronto a lanciare un'altra sfida. Così ci raccontano Luca Bontempelli e Gianluca Pasini da San Francisco. Partiti troppo tardi, ma non volevamo uscire dal giro, dice Bertelli. Sirena, ma Max Sirena, lo skipper, è già confermato. Dal Fatto Quotidiano, torniamo un attimo sul Fatto Quotidiano, a pagina 12 e 13, un lunghissimo ricordo di Furio Colombo, giornalista che ha vissuto molto negli Stati Uniti e sicuramente conosce bene gli Stati Uniti. Vi racconto quei giorni con Martin Luther King. Ne hanno parlato tanti giornali e probabilmente ne parleranno anche nei prossimi giorni. Infatti il 28 agosto del 1963, quindi esattamente 50 anni fa, a Washington ci fu la famosa marcia con il grande discorso di Martin Luther King, quello I Have a Dream. C'erano 250.000 persone, secondo molti e secondo Furio Colombo quella giornata ha cambiato l'America e l'ultimo tassello di questo cambiamento è la presidenza di Barack Obama, lo sapete, primo afroamericano a diventare presidente degli Stati Uniti. Dall'Avvenire, che come sempre ve lo dico, insomma non è la prima volta che lo dico, ha degli approfondimenti che spesso non si trovano sugli altri giornali. Ecco, oggi si parla di Filippine, non lo sappiamo, ma nelle Filippine c'è una grande protesta in questo momento, una protesta popolare, una protesta pacifica, sprechi, abusi e corruzione, la marcia infiamma Manila, fondi pubblici scomparsi, il presidente Aquino all'angolo, sono andati in 100.000 in strada nonostante la pioggia e l'arcivescovo è... Sapete che le Filippine sono un paese dove la religione cattolica e quindi i suoi leader sono molto, molto diffusi, i suoi leader molto ascoltati. L'arcivescovo: vedete, ascoltate e amate i poveri, ha detto alla folla. Purtroppo era l'ultima segnalazione che riesco a farvi, ma davvero i giornali oggi sono ricchissimi di approfondimenti. Comprate quello che volete, magari più di uno, ma comprateli. Ancora una buona giornata da Giulia Crivelli.